Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco è più morte. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera ci ha accolto Vittorio Sermonti in una delle sue indimenticabili letture della Divina Commedia, di cui abbiamo ascoltato l'incipit. La Divina Commedia è certamente il poema sul quale si fonda l'identità culturale dell'Italia e ci viene riproposta quest'opera da un noto giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, nel suo ultimo libro A rivedere le stelle, Dante, il poeta che inventò l'Italia, pubblicato da Mondadori, 278 pagine, 18 euro. Il libro, per la verità, riguarda solo l'inferno, ma come spiega il sottotitolo, non è un saggio sull'opera, ma sull'autore, su questo personaggio grande, tragico, tormentato, che fu Dante Alighieri, di cui nel 21, l'anno prossimo, ricorderemo il 700° della morte. A Cazzullo interessa soprattutto mettere in luce il ruolo che Alighieri ha svolto per dare alla parola Italia una connotazione culturale, ma anche un'identità e una vocazione che superassero i piccoli e grandi principati che la formavano ai suoi tempi. Inventò, insomma, una patria, la nostra patria, che dunque, spiega nelle prime righe, non nasce dalla politica o dalla guerra, da un matrimonio dinastico, da un trattato diplomatico, ma nasce dalla cultura e dalla bellezza, dai libri e dagli affreschi. È nata da Dante e dai grandi scrittori venuti dopo di lui, Petrarca, Boccaccio. È nata da Giotto, è nata dagli altri artisti che da Dante furono ispirati nel ritrarre il bene e il male, il paradiso e l'inferno, la grandezza dell'uomo e l'abisso della sua perversione. Cazzullo segue fedelmente il viaggio di Dante, scortato naturalmente da Virgilio, all'inferno, e in questo viaggio ci illustra il personaggio, i suoi tempi, i suoi temi, le sue passioni, la sua visione poetica e naturalmente i suoi immortali personaggi che diventano spesso simbolo di quegli odi e di quelle passioni che Dante esprime nel suo poema. E sentiamo allora da Cazzullo alcune osservazioni su questo viaggio. Buonasera ad Aldo Cazzullo. Buonasera. Aldo Cazzullo, negli ultimi libri che sta scrivendo, lei sta compiendo una specie di opera di pedagogia nazionale. Qual è stata l'esigenza che ha sentito e che la spinge a scrivere questo tipo di libri, fra quali questo di Dante di cui parleremo? Ma io sono convinto che noi italiani siamo più legati all'Italia di quello che amiamo riconoscere. Ci piace parlarne male, ma se lo fanno gli stranieri ci arrabbiamo. L'Italia è come la mamma, la possiamo criticare soltanto noi. E quindi ricostruire il Risorgimento, Grande Guerra, Resistenza, ma prima ancora, adesso Dante, l'origine proprio non solo della lingua italiana, ma dell'idea stessa d'Italia, e Dante il primo che parla d'Italia, e Dante il primo che parla di bel paese, è un'esperienza che poi ti consente di entrare in relazione con i lettori, e scopri che i lettori poi sono molto interessati alla storia d'Italia, soprattutto quando incrocia la storia delle loro famiglie, quando sentono che la storia parla di loro. E Dante parla di noi, Dante siamo noi, fin dal primo verso, nel mezzo del cammin di nostra vita, dove la parola chiave è nostra, la storia ci interessa, ci riguarda. E infatti nel suo libro ci sono molti episodi che spesso sono stati trascurati o sono ancora trascurati, molti episodi della storia d'Italia che lei in qualche misura, non dico legge con gli occhi di Dante, ma che Dante ci invita a ripensare. Per esempio ci parla di Nazario Sauro, ci parla di Ciro Menotti, ci parla della tragedia del Vajont. Insomma, Dante diventa un po' la chiave di lettura della nostra storia. Beh sì, perché il viaggio dell'infernale di Dante è anche un viaggio in Italia. Dante ad esempio racconta il lago di Garda, la Lombardia, Mantova, il Minzo, Firenze, tutte le città toscane, la Roma del Giubileo, l'Etna, lo stretto di Messina, e poi in qualche modo ci fa intravedere anche quello che accadrà, quando ad esempio racconta il golfo del Quarnaro che Italia chiude e i suoi termini, le sue frontiere bagna, beh ci ricorda che lì ci manca un pezzo d'Italia, ci evoca la tragedia degli Istriani, dei Dalmati, 350.000 esuli, con la bara di Nazario Sauro. E di quando io penso alla storia patria, che poi è avvenuta nei luoghi descritti da Dante, penso che in realtà i nostri eroi, a parte i poeti ovviamente, non sono condottieri vittoriosi, non sono generali che hanno assoggettato altri popoli o sparso sangue altrui, sono persone che fondamentalmente hanno saputo morire bene nel Risorgimento, di redentisti, la Resistenza, senza maledire i carnefici, per l'amore della patria, della libertà, e scrivendo delle parole di amore per il prossimo. Cito Ciro Menotti, perché? Perché Dante descrive il Mincio e Mantova. Ciro Menotti era terra di Modena, ma viene portato prigioniero a Mantova per evitare che il popolo lo liberasse. E lui, prima di morire, scrive questa meravigliosa lettera alla vedova dicendo: rivedrai il mio volto in quello dei figli, e quando avranno l'età per capire, dirai loro che loro padre era uno che amò sempre il suo simile, il suo prossimo. E molti di loro morirono citando Dante nelle loro lettere. I redentisti, appena potevano, a Trento e Trieste, costruivano statue Dante, dedicavano a Dante le scuole in lingua italiana. Cesare Battisti e Alcide De Gasperi, un socialista e un cattolico, si ritrovano insieme in carcere per aver chiesto un'università in lingua italiana. E Dante per loro era un punto di riferimento non solo letterario, ma anche morale. L'Italia, dunque, lei ci spiega, nasce con Dante, come dice il sottotitolo del suo libro, Dante, il poeta che inventa l'Italia, e poi aggiunge che l'Italia è nata dalla cultura e dalla bellezza. Quanto ha influenzato il suo futuro, il suo destino, la sua storia, questa origine dell'Italia? Beh, ci sono nobili nazioni che sono nate da una guerra o nate da un matrimonio dinastico, non so, la Spagna nasce da un matrimonio dinastico, il re d'Aragona sposa la regina di Castiglia. L'Italia come Stato è molto giovane, ma l'Italia, quando è diventata uno Stato, in realtà c'era già da secoli. L'Italia appunto nasce, come diceva lei, dalla bellezza, dalla cultura, dalla poesia. E quindi nasce con Dante, che ci ha dato non soltanto una lingua, ma soprattutto un'idea di noi stessi. Per Dante l'Italia ha una missione. L'Italia ha conquistato il mondo due volte, con l'impero romano e con la cristianità. E conciliare la tradizione classica, Virgilio, con la fede cristiana è, secondo Dante, la missione dell'Italia. In qualche modo l'umanesimo, ecco la straordinaria modernità di Dante, che è un uomo del Medioevo, ma anche, come diceva Fernando Pessoa, è anche il primo umanista. E dobbiamo anche essere un po' fieri di quello che abbiamo dato al mondo. L'Italia è importante nel mondo proprio per la cultura umanista e cristiana. Diceva Borges che la Divina Commedia è il più bel libro scritto dagli uomini. È un libro scritto in italiano, nella nostra lingua, da un italiano, un nostro compatriota. E già questo dovrebbe renderci consapevoli di chi siamo, di quello che abbiamo fatto, di quello che come italiani possiamo ancora fare. Dante inventa l'Italia. L'Italia è un po' l'orizzonte che unifica tanti fili della storia, però la sua prospettiva rimane quella dell'impero. Come concilia Dante queste due prospettive, l'Italia e l'impero? Sì, per Dante l'Italia non è uno Stato, l'Italia è un'idea. È un paradigma non soltanto di bellezza, il bel paese, un'espressione che inventa lui, ma è anche un sistema appunto di valori. E l'impero è un impero che non comanda, ma è un impero che pacifica. Per Dante le libertà comunali sono sacre, anche se poi scrive che a Firenze, la sua città, i mediocri fanno politica, i migliori no, e quindi i capi, i governi cambiano di continuo, una legge fatta a ottobre non arriva a metà novembre, sembra il ritratto dell'Italia di oggi. E non solo, Dante condanna gli usurai e tutti quelli che fanno soldi con altri soldi sulla pelle della povera gente, ed esalta coloro che traggono il proprio pane dalla natura, quindi i contadini, e dal talento, dal merito, dal lavoro. Anche questo è molto moderno. Quanto incise su questa concezione dell'Italia, su questa scoperta dell'Italia o invenzione da parte di Dante, l'odio che invece aveva per Firenze, che non nasconde nella sua nella Divina Commedia? Lei ricorda, per esempio, mi pare Brunetto, no, che definisce i fiorentini orbi, ingrato popolo maligno, avari, invidioso, superbi, letame, nido di malizie, bestie fiesolane. Insomma, non era tenero coi suoi concittadini. Infatti, in realtà, attraverso i personaggi che incontra, Dante racconta se stesso. Virgilio era il suo autore, Beatrice la donna amata. Francesca simboleggia la fase in cui Dante praticò l'amore carnale e anche fu attratto dalla letteratura cavalleresca, che poi condanna, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Brunetto Latini era il suo maestro. Pier delle Vigne muore suicida e Dante ebbe la tentazione del suicidio durante l'esilio. Il conte Ugolino vede morire di fame i suoi quattro figliuoli, in realtà erano due nipoti e due figli. Dante ebbe quattro figli, tra cui una ragazza, Antonia, che si fece suora con nome di Beatrice, e li vide soffrire la fame per causa del suo esilio. Anche se il personaggio che assomiglia più a Dante è l'Ulisse dantesco, no? L'uomo che va oltre le colonne d'Ercole, l'uomo che cerca, l'uomo che non si accontenta di quello che sa, vuole sapere sempre di più. Ebbene, Firenze è al centro di questa sua vicenda di dolore. tu proverai sì come sa di sale lo paneltrui e come duro calle lo scendere e salire per l'altrui scale. Dante non perdona i fiorentini di averlo esiliato, infatti Machiavelli avrà parole molto dure per Dante, anche Machiavelli va a cadere in disgrazia ma resta a Firenze e condanna Dante perché, dice Dante, ha denigrato la patria fiorentina. E anche Petrarca non amava Dante e in una lettera a Boccaccio, che invece adorava Dante, Boccaccio il primo a definire la commedia divina e Boccaccio a inaugurare la tradizione delle letture di Dante in pubblico, poi proseguita fino ai giorni nostri, Albertazzi, Gassman, Sermonti, Benigni, ebbene in questa lettera bellissima, Petrarca scrive a Boccaccio: io non ho letto Dante perché altrimenti avrei tentato di imitarlo e lui è talmente grande che non sarei mai riuscito a farlo, anche se, se vuole la mia impressione, io penso che Petrarca abbia letto, annotato e mandato a memoria la Divina Commedia. Questo suo libro è l'inizio di una trilogia o basta l'inferno per descrivere l'Italia? Ma io lo affido molto ai lettori perché... io non sono uno scrittore che scrive quando gli viene l'ispirazione, quando si increspa l'acqua del lago, a me interessa moltissimo il dialogo con i lettori e non è soltanto questione di vendere libri, che pure è una cosa importante, il libro in questo momento è il più ordinato su Amazon, è una cosa che mi riempie di felicità, ma è proprio di capire se hai toccato una corda, cioè se hai dato al lettore l'impressione che il libro sta parlando di lui, della sua storia, di quello in cui crede, sia in quanto italiano, sia in quanto credente, perché è credente, ma anche in quanto essere umano, perché poi la Divina Commedia è anche un viaggio fino ai confini di ciò che è noi. Ulisse vuole divenire del mondo esperto, degli vizi umani e del valore, diventare esperti dell'animo umano, poi il motivo per cui siamo al mondo. Per cui se la reazione del lettore è quella che mi pare di capire da questi primi giorni, io vado avanti anche con il purgatore e con il paradiso. Se invece mi diranno, guarda, lascia perdere, non è il tuo pane, mi fermerò qua. Però ho l'impressione che si possa continuare. E magari questa trasmissione avrà dato il suo contributo. Allora, grazie. Vi ringrazio moltissimo. Grazie ad Aldo Cazzulla, autore di Arrivedere le stelle. Buona serata. Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori. E su Dante esce la biografia curata da un noto e popolare storico, Alessandro Barbero. Si intitola semplicemente Dante, pubblicato dalla Terza, 362 pagine, 20 euro. Barbero, come sapete, un grande storico, capace di appassionare tutti i lettori, e qui ci conferma queste sue qualità presentandoci lo scrittore all'interno di una narrazione che scorre come un romanzo, fornendoci informazioni e particolari insospettati. Ci racconta delle sue origini, della dubbia nobiltà della famiglia, del quartiere dove Dante nacque e visse da giovane, dei suoi amici, degli studi, del matrimonio, dei suoi redditi, della grande passione per la politica e dell'esilio cui fu costretto. Tutti aspetti che ci fanno comprendere tanti lati magari rimasti in secondo piano del personaggio e che contribuiscono poi a spiegare tanti elementi della sua opera che qui resta sullo sfondo per far risaltare appunto la drammatica potenza del personaggio Dante. E a questo punto... Il confettino. Cominciano a uscire in vista del centenario anche dei libri per i più piccoli dedicati a Dante. Vi segnalo Dante, il mio babbo, di Chiara Lossani, illustrato da Michael Bardeggia, pubblicato da Arca, 64 pagine, 22 euro, in cui Dante e la Divina Commedia ci vengono presentati da Antonia, la figlia del poeta. E poi Dante viandante nella fossa sprofondante di David Conati, illustrato da Gianluca Passarelli, pubblicato da Lisciani Libri, 40 pagine, 9,90 euro, un libro originale nel quale l'autore ci presenta il frutto della sua ricerca sulla presenza del nome Dante in parole italiane. Sono 48, da abbondante a viandante. Usandole l'autore ha cercato di illustrare il viaggio del poeta, trasposto anche in versione teatrale da Toni Du e Andrea Sbrogiò. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Dalla robotica all'intelligenza artificiale, dalla nanomedicina ai materiali bioispirati, dalla blockchain alle tecnologie per la sostenibilità. Con Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, apriamo una finestra sul futuro. Tante notizie da tutto il mondo, commentate da alcuni dei nostri migliori scienziati. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Restiamo all'Italia, prepariamoci a un altro anniversario, anzi un altro centenario che riguarda la politica. Nel 1921 infatti fu fondato a Livorno il Partito Comunista d'Italia in seguito alla scissione che si era verificata nel congresso del Partito Socialista che si era svolto in quella città. E in vista di quel centenario esce il libro di Mario Pendinelli e Marcello Sorgi, Quando c'erano i comunisti, 100 anni del PC tra cronaca e storia, pubblicato da Marsilio, 384 pagine, 18 euro. I due autori partono dall'oggi, andando alla ricerca delle ragioni della debolezza della democrazia italiana, da ricercare proprio in quei mesi che videro appunto prima la nascita del Partito Comunista e qualche mese dopo il successo del fascismo. Pendinelli e Sorgi ripercorrono la storia del Partito Comunista fino all'abbandono del nome storico, alla ricerca di un nuovo modello e soprattutto alle difficoltà in tutto il mondo della sinistra a riproporsi alla luce degli insegnamenti anche del Covid, che portano a rivedere e in parte rivalutare il ruolo dello Stato. La sinistra, dicono i due autori, deve ricominciare a pensare partendo magari proprio da Gramsci, che del Partito Comunista delle origini fu uno dei protagonisti. I due autori ricostruiscono qui brillantemente la parabola del Partito Comunista e in particolare gli anni febbrili del primo dopoguerra, la vivacità del dibattito in corso, il ruolo di una grande città industriale come Torino, i rapporti del Partito Comunista con l'Unione Sovietica, le figure dei vari segretari. E dal libro vi propongo alcune righe che ci riportano alla situazione che stiamo vivendo in questi mesi. Come altre volte, si pensa che sia finita la storia. Invece, liquidare troppo frettolosamente le proprie radici, senza riflettere sulle ragioni per cui una fase si chiude, rischia di compromettere anche l'avvenire. Per confermare l'utilità di questa riflessione, basterebbe annotare che il 2020 si apre con la pandemia mondiale del coronavirus e con una quantità sconcertante di paragoni e riferimenti a ciò che accadde tra il 1918 e il 1920. Quando il pianeta viene invaso dall'influenza spagnola che arriva a infettare da 500 milioni a 1 miliardo di persone, secondo le stime, con decine di milioni di morti e conseguenze sociali, economiche e sanitarie che durano per anni. Anche adesso, nel nuovo secolo, la grande epidemia e la minaccia mortale del virus mettono a dura prova tutti i governi del mondo. Completa il libro una lunga intervista svoltasi nel 1981 con Umberto Terracini, la fece Mario Pendinelli. Terracini fu uno dei protagonisti, allora giovanissimo, della scissione e subito collocato al vertice del nuovo partito. Un protagonista del libro di Pendinelli e Sorgi è Amadeo Bordiga, presentato come capo della corrente più estremista, un ingegnere napoletano di 30 anni che viene da una famiglia dell'alta borghesia imparentata con l'aristocrazia risorgimentale. E su Bordiga, che fra l'altro fu il primo segretario del nuovo partito, escono due libri. Primo, per la verità, Bordiga è comprimario, un libro di Luca Gorgolini, che è uno storico all'Università della Repubblica di San Marino e l'Accademia Militare di Modena, Gioventù rivoluzionaria, Bordiga, Gramsci, Mussolini e i giovani socialisti nell'Italia liberale. È pubblicato da Salerno, 296 pagine, 22 euro. Ritroviamo nel libro molti spunti relativi alla nascita del Partito Comunista d'Italia, della quale furono protagonisti appunto molti giovani che provenivano dal movimento giovanile socialista. Questo era stato fondato nel 1903 e aveva subito presto una scissione tra riformisti e rivoluzionari. Poi anche il movimento ufficiale si era spostato a sinistra e vi assunse un ruolo di primo piano proprio Bordiga. E queste vicende sono ricostruite in questo libro fino appunto al congresso di Livorno, quale appunto giocò un ruolo molto importante tra gli altri Bordiga, da subito rivoluzionario intransigente e messosi in luce negli anni precedenti per le posizioni antimilitariste, le cui vicende si intrecciano con quelle di Gramsci e di Mussolini, quest'ultimo anche lui all'inizio esponente delle frange rivoluzionarie del Partito Socialista, di cui diventò un leader all'interno del movimento giovanile. Bordiga è invece protagonista di un romanzo del giornalista Diego Gabutti che torna in un'edizione rinnovata, un'avventura di Amadeo Bordiga. Noir a Berlino è pubblicato da Le Milieu, 246 pagine, 16,90 €. Bordiga, che appunto del Partito Comunista sarebbe stato il primo segretario, per poi essere espulso dal partito nel 1930 per le posizioni sempre più intransigenti, oltranziste e a un certo punto filo-trotskiste, lo troviamo qui in un periodo intermedio, nel 1926. E a Berlino, in viaggio verso Mosca, l'ex segretario è già in disgrazia e ormai il partito è in mano a Gramsci. Un destino che l'interessato accoglie con fatalismo. Antonio Gramsci scrive: era un'ottima persona, se non si faceva caso a tre suoi difetti, per la verità capitali. Non era marxista. Era andata così. Destino. La marea rivoluzionaria si era infranta sugli scogli dell'Occidente capitalistico. E questa naturalmente è una citazione del libro. Il soggiorno a Berlino si svelerà fonte di un appassionante garbuglio di vicende che hanno al centro un carteggio misterioso, niente meno che tra Marx e Bismarck. Buio popolato da una miriade di personaggi illustri, compresi Nero Wolf, il giornalista Edgar Snow, l'autore di una eccessiva, famosissima intervista a Mao Zedong che ne contribuì a creare il mito, il regista Fritz Lang. Un gruppo importante che contribuì alla nascita del Partito Comunista d'Italia fu quello torinese di Ordine Nuovo, al quale appartevano tra gli altri proprio Gramsci e Terracini. E a Torino Gramsci aveva suscitato l'interesse di un altro celebre intellettuale antifascista, questo di scuola liberale, Piero Gobetti, che dal fascismo sarebbe stato poi ucciso giovanissimo a 25 anni. Gobetti è stata una figura di liberale sui generis, molto attento e sensibile per esempio al ruolo della classe operaia, e ne discute un altro celebre esponente del liberalismo torinese, Manlio Brosio, vissuto tra il 1897 e il 1980, che a Gobetti fu molto vicino e poi sarebbe diventato un importante diplomatico e segretario generale della NATO. Di Brosio esce il libro Riflessioni su Piero Gobetti, con un'utile prefazione di Bruno Quarante, pubblicato da Ragno, 106 pagine, 15 €. Su Gobetti, Brosio, in questo volume che era apparso per la prima volta nel 1974, esterna le proprie posizioni molto rispettose, ma talvolta anche critiche, per la preoccupazione che il fondatore della rivista e scrittore, autore del libro Rivoluzione Liberale, propendesse più per il sostantivo rivoluzione che non per l'aggettivo liberale. E troveremo nel libro i ricordi personali, gli interrogativi che l'opera di Gobetti suscita in Brosio, il quale a un certo punto si chiede, per esempio, se Gobetti sia stato veramente un liberale, chi e in quale senso ha più ragione di rifarsi alle sue idee nella lotta politica di oggi, si chiede l'autore. Brosio smonta le tesi di Gobetti, nel senso che le esamina analiticamente, per concludere che sarebbe azzardato arruolare oggi Gobetti in un'ideologia o in un partito, naturalmente con un omaggio commosso alla sua tempra morale riassunto in queste righe. Dal suo esempio di rigorosa intransigenza, di austera volontà, di lotta continua, tutti possono trarre insegnamento, ispirazione, incoraggiamento morale. Nessuno un messaggio politico definito, né tantomeno un messaggio di parte. Nel crogiuolo incandescente delle sue idee, ciascuno può cercare alimento per temprare le proprie. Nel coraggio luminoso della sua attività, ognuno può trovare ammonimento e sprone alla serietà del proprio operare. Ad esempio, i miei amici liberali potrebbero utilmente trovare in Gobetti un invito alla fermezza sulle loro posizioni e non certo un incoraggiamento al prematuro compromesso, al corteggiamento di altre dottrine e di altri principi, più o meno sociali, socialistoidi o solidaristi. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Michele Previati, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.